Invocazioni e preghiere dalla sunna. Preghiera da recitare dopo essersi coricati. Bismika Rabbi wada'tu jambi wa bika arfa'uhu. Allahumma in amsakta nafsi farhamha wa in arsaltaha fahfazha bima tafhazu bihi aibadiha salihin. Nel tuo nome, o Signor mio, ho adagiato la mia gamba e grazie a te la alzo. O Allah, se trattieni la mia anima, abbi pietà di essa, e se la lasci tornare, custodiscila per ciò per cui tu conservi i tuoi servi pii. Preghiera del risveglio. Alhamdulillahi alladhi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi an-nushur. La lode appartiene ad Allah, il quale ci ha dato la vita dopo averci fatto morire, e verso Lui è la resurrezione. Preghiera all'ingresso del luogo di decenza. Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal-khaba'ith. O Allah, in verità io chiedo la tua protezione dalle cose immonde. E all'uscita, Ghufranak alhamdulillahi alladhi azhaba anni l'adha wa afani. Il tuo perdono. La lode appartiene ad Allah, il quale ha allontanato da me il disturbo e mi ha dato salute. Preghiera davanti allo specchio. Quando ti guardi, alhamdulillah, Allahumma kama hassanta khalqi fa hassin khuluqi. La lode appartiene ad Allah, o Allah, come hai fatto bella la mia immagine, così rendi bello il mio comportamento. Preghiera del vestito. Quando indossi il vestito nuovo. Alhamdulillahi alladhi kasani hadha wa razaqanihi min ghairi hawlin minni wa la quwwa. Allahumma inni as'aluka min khairihi wa khairi ma huwa lah wa a'udhu bika min sharrihi wa sharri ma huwa lah. La lode appartiene ad Allah, il quale mi ha rivestito con questo abito di cui mi ha dato la possibilità di disporre senza nessun mio potere né capacità. O Allah, in verità io ti chiedo del bene da esso e da ciò che ad esso appartiene, e chiedo protezione a te dal suo male e dal male che ad esso appartiene. Preghiera del mattino. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaika an-nushur. O Allah, grazie a te noi entriamo nel mattino e grazie a te noi entriamo nella sera. Da te dipende la nostra vita e dipende la nostra morte, e a te è la resurrezione. Preghiera della sera. Allahumma bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaika al-masir. Wallah, grazie a te noi entriamo nella sera e grazie a te noi entriamo nel mattino. Da te dipende la nostra vita e la nostra morte, e a te è il punto di arrivo. Preghiera quando ci si mette a tavola. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Bismillah, e poi comincia a mangiare. O Allah, benedici noi in quello di cui ci hai provveduto e scampaci dal castigo del fuoco, nel nome di Allah. E alla fine del pasto, Alhamdulillahilladhi at'amana wa sakana wa ja'alana muslimin. La lode appartiene ad Allah, il quale ci ha dato da mangiare, ci ha dato da bere e ci ha fatto musulmani. Preghiera all'ingresso della moschea. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alih. Allahumma ghafirli dhunubi waftahli abwaba rahmatik. Nel nome di Allah, l'esaltazione e la pace sull'apostolo di Allah. O Allah, perdonami i miei peccati ed apri a me le porte della tua misericordia. Preghiera all'uscita dalla moschea. Bismillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi. Allahumma ghafirli dhunubi waftahli abwaba fadlik. Preghiera dell'abluzione rituale. Allahumma ghafir li dhanbi wa wassi li fi dari wa barik li fi rizqi. O Allah, perdona il mio peccato, largheggia in mio favore nella mia casa e benedicimi nella mia sorte. Preghiera al termine dell'abluzione rituale dopo la professione di fede. Ashhadu an la ilaha illallahu wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni min at-tawwabina wa ja'alni min al-mutatahhirin. Preghiera dopo aver udito la chiamata al rito di adorazione, cioè l'adhan. Allahumma rabbi hadhihi ad-da'wati at-tamma wassalati al-qa'ima ati Muhammadan il-wasilata wal-fadila wab'athu maqaman mahduda alladhi wa'ad. O Allah, Signore di questa chiamata eseguita e di questa adorazione rituale da eseguire, concedi a Muhammad l'aiuto e l'eccellenza e resuscitalo nella posizione lodata che gli hai promesso. Preghiera all'uscita di casa. Bismillah, tawakkalna ala Allah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Nel nome di Allah, su Allah faccio affidamento. Non c'è né potere né forza se non per grazia di Allah. Preghiera dell'entrata in casa. Bismillah. Allahumma inni as'aluka khaira al-maulaji wa khaira al-makhraj. Bismillahi walajna wa bismillahi kharajna wa ala Allahi rabbina tawakkalna. O Allah, ti chiedo il bene dell'entrata e il bene dell'uscita. Nel nome di Allah noi entriamo e nel nome di Allah noi usciamo, e su Allah, Signor nostro, facciamo affidamento. Preghiera al termine di una seduta, di una adunanza, prima di andarsene. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Incondivisa, o Allah, è la tua divinità e la lode che ti spetta. Attesto che non c'è divinità tranne te. Ti chiedo perdono e torno a te. Preghiera del commiato quando un fratello è in partenza per un viaggio. Astaudi'ullaha dinaka wa amanatika wa khawatima amalik. Affido ad Allah la tua religione, le cose che ti sono state affidate e l'esito delle tue azioni. Preghiera della salita su un mezzo di trasporto, quando si sale su un mezzo di trasporto. Subhanalladhi sakhkhara lana hadha wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. La lode appartiene ad Allah, incondivisa è la divinità di colui che ha messo questo a nostra disposizione. Da soli noi non avremmo potuto, e in verità al nostro Signore noi ritorneremo. Preghiera dell'ingresso in una località durante un viaggio. Allahumma as'aluka khaira hadhihi al-qarya wa khaira ahliha wa khaira ma fiha wa na'udhu bika min sharriha wa sharri ahliha wa sharri ma fiha. O Allah, ti chiedo il bene di questa località, il bene dei suoi abitanti e il bene di ciò che in essa si trova. Ti chiediamo protezione contro il suo male, il male dei suoi abitanti e il male di ciò che in essa si trova. Quando si prende alloggio. A'udhu bi kalimatillahi tammati min sharri ma khalaqa. Cerco rifugio nelle parole di Allah contro il male delle cose che creò. Preghiera alla vista del proprio paese quando si torna. Allahumma ja'allana biha qararan wa rizqan hasana. O Allah, dacci in essa una sede e una buona provvidenza. Preghiera del rientro quando si rientra. A'ibuna ta'ibun abidun li rabbina hamidun. Ritorniamo ravveduti, adoratori e molto lodatori del nostro Signore. Preghiera dell'entrata nel mercato. Bismillah. Allahumma inni as'aluka khaira hadhihi souq wa khaira ma fiha wa a'udhu bika min sharriha wa sharri ma fiha. Allahumma inni a'udhu bika an usiba fiha yaminan fajira aw safqatan khasira. O Allah, in verità ti chiedo il bene di questo mercato e il bene di ciò che vi è in esso. Mi rifugio in te contro il male di esso e di ciò che vi è in esso, o Allah, in verità io ti chiedo protezione affinché in esso io non venga danneggiato da un affare fallimentare. Preghiera alla visita del cimitero. Assalamu alaikum ahla diyari minal mu'minin wa inna insha Allahu bikum lahikun as'alullaha lana wa lakumul afia. Sia pace a voi, o famiglia delle tombe dei credenti. Noi in verità, se Dio vuole, vi seguiremo. Chiedo ad Allah per noi e per voi la salute. Preghiera alla vista delle meraviglie del creato. Rabbana ma khalaqta hadha batilan subhanaka faqina adhaban nar. Signor nostro, non creasti questo invano. Incondivisa è la tua divinità, scampaci dal castigo del fuoco. Preghiera del vento. Allahumma inni as'aluka khayraha wa khayra ma fiha wa khayra ma arsalta bih wa a'udhu bika min sharriha wa sharri ma fiha wa sharri ma arsalta biha. Wallah, io ti chiedo il bene di esso, del vento, il bene di ciò che vi è in esso e il bene di ciò che hai inviato per mezzo di esso, e ti chiedo protezione contro il male di esso, il male di ciò che vi è in esso e il male di ciò che hai mandato con esso. Preghiera del tuono. Subhana alladhi yusabbihu ar-ra'du bihamdi wal malaikatu min khifati. Incondivisa è la divinità di colui che il tuono e gli angeli con timore riverenziale glorificano. Preghiera della luna nuova. Allahumma ahillahu alaina bil amni wal imani was salamati wal islami wat tawfiqi lima tuhibbu wa tarda. Rabbuna wa rabbuka Allah. Wallah, falla sorgere su di noi con la sicurezza, la fede, la salvezza, l'Islam e il favore per le cose che tu ami e di cui ti compiaci. Il nostro Signore e il tuo Signore è Allah. Questa è ultima rivolta alla luna. Preghiera per la pioggia. Allahumma sayyiban nafi'an. Wallah, ti chiediamo una nuvola carica di pioggia benefica. Preghiera dello starnuto. Chi starnutisce deve dire Alhamdulillah, la lode appartiene ad Allah. Chi lo ascolta deve dire Yarhamukallah, Allah ti usi misericordia, al quale bisogna rispondere Yahdikumullahu wa yuslih balakum, che Allah vi guidi e migliori la vostra condizione. Quando si vede una cosa bella che dà gioia, bisogna dire Masha Allah, la quwwata illa billah. Quando si vede una cosa che ci disturba, bisogna dire Alhamdulillahi ala kulli hal, la lode appartiene ad Allah in ogni caso. Preghiera dell'ira. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Chiedo protezione ad Allah contro Satana il lapidato. Preghiera alla vista di qualcuno sottoposto a una prova senza che quello oda. Alhamdulillahi alladhi athani mimma batala bihi katiran min khalqi wa faddalani ala kathirin mimman khalaqa tafdila. La lode appartiene ad Allah, il quale mi ha preservato da ciò con cui ha colpito molte delle sue creature, il quale mi ha favorito con un grande favore rispetto a molte sue creature. Preghiera della rottura del digiuno, cioè aliftar. Allahumma laka sumna wa ala rizqika aftarna fatakabbal minna innaka antas samiul alim. O Allah, per te abbiamo digiunato, con ciò di cui tu ci hai provveduto abbiamo rotto il digiuno, perciò accetta da noi. In verità tu sei colui che ode e colui che sa. Preghiera per chi ha offerto la rottura del digiuno. Aftara indakumussa imuna wa aqala ta'amakumul abrar wa sallat alaikumul malaika. Rompano il digiuno presso voi i digiunanti, mangino il vostro cibo i pii e preghino per voi gli angeli. Altra preghiera per chi ha offerto la rottura del digiuno. Allahumma barik lahum fima razaktahum waghfir lahum warhamhum. O Allah, benedicili in ciò che hai dato loro in sorte e usa loro misericordia. Preghiera nella notte del destino. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'afu anni. O Allah, tu sei indulgente ed ami l'indulgenza, perciò sii indulgente con me. Auguri agli sposi. Barakallahu laka wa barakallahu alaik wa jama'a bainakuma fi khair. Che Allah ti benedica, su te faccia scendere Allah la sua benedizione e tenga voi due uniti in prosperità. Quando nasce un bambino, il profeta diceva: Burikalaka fil mawhub wa shakarta al-wahib wa ruzikta birrah. Tu sia benedetto in ciò che ti è stato donato, ringrazia il donatore e che ti sia data in sorte la sua pietà filiale. Quando uno si accinge a salire, deve dire Allahu Akbar, Allah è più grande. Invece quando si scende bisogna dire Subhanallah, la qualità divina di Allah è incondivisa. Preghiera del perdono. Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdika wa wa'adika mastata'at. A'udhu bika min sharri ma sana'at abu'u laka bin ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. O Allah, tu sei il mio Signore, non c'è divinità tranne te. Tu mi hai creato e io sono il tuo servo e io mi comporto in base al tuo patto e alla tua promessa per quello che posso. Chiedo protezione a te contro il male che ho commesso. Confesso a te la tua grazia a mio favore e confesso la mia colpa. Perciò perdonami, poiché in verità non perdona i peccati altri che te. Preghiera quando sei indeciso su quale decisione prendere, la istikhara, e dopo aver fatto due rakà devi recitare Allahumma inni astakhiruka bi'ilmika wa astaghdiruka biqudratik wa as'aluka allahumma min fadlikal azim fa innaka taqdir wa la aqdir wa ta'lam wa la a'lam wa anta 'allamul ghuyub allahumma in kunta ta'lam anna hadha al-amra khairun li fi dini wa ma'ashi wa 'aqibati amri faqdurhu li wa yassirhu li fi thumma barik li fih wa in kunta ta'lam anna hadha al-amra sharrun li fi dini wa ma'ashi wa 'aqibati amri fasrifhu anni waqdirhu li al-khair haythu kan thumma raddini bih wala. Ti chiedo una retta ispirazione grazie alla tua scienza, ti chiedo la forza grazie alla tua potenza e ti chiedo, o Allah, dal tuo sublime favore. Tu puoi mentre io non posso, tu sai mentre io non so, e tu sei il profondo conoscitore dei misteri. O Allah, se tu sai che questo affare è bene per me nella mia religione, nei miei mezzi di vita e nell'esito delle mie cose, decretalo in mio favore, facilitamelo e benedicimi in esso. Al contrario, se sai che questo affare è per me un male nella mia religione, nei miei mezzi per vivere e nell'esito delle mie cose, allontanalo da me e decreta per me il bene dove si trova e compiaciti di me grazie ad esso. Dopo aver detto questa giaculatoria, chiedi quello che desideri che ti venga detto in rapporto a quello che sei indeciso sul da farsi. E quando sei preoccupato, La ilaha illallahul azimul halim, La ilaha illallahu rabbul arshil azim, La ilaha illallahu rabbus samawati wa rabbul ard wa rabbul arshil karim. Non c'è divinità tranne Allah il sublime, non c'è divinità tranne Allah, il Signore del trono sublime. Non c'è divinità tranne Allah, il Signore dei cieli, il Signore della terra, il Signore del santo trono. Adesso vediamo varie preghiere per diverse occasioni da scegliere. Una volta che le hai imparate a memoria, le scegli per la situazione opportuna. Allahumma Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. O Allah, Signor nostro, dacci la cosa buona in questa vita e la cosa buona nella vita futura e scampaci dal castigo del fuoco. Allahumma inni as'aluka al-huda wa tuka wal-afafa wal-ghina. O Allah, in verità io ti chiedo la guida, il timore, la rettitudine e la libertà dal bisogno. Allahumma inni as'aluka min al-khayri kullahu ma 'alimtu wa ma lam a'lam wa a'udhu bika min ash-sharri ma 'alimtu wa ma lam a'lam. O Allah, in verità io ti chiedo il bene di tutto ciò che io so e che non so, e ti chiedo di proteggermi dal male di ciò che so e di ciò che non so. Allahumma a'inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatik. O Allah, sostienimi nel ricordo di te, nel ringraziamento di te e nell'adorarti nel migliore dei modi. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyati fid-dunya wal-akhirah. Wallah, in verità io ti chiedo il perdono e la buona salute nella vita presente e nella futura. Allahumma inni a'udhu bika min 'ilmin la yanfa' ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. Wallah, io in verità ti chiedo la tua protezione da un sapere che non giova, da un cuore che non teme, da un io che non si sazia, da una preghiera che non ha risposta. Allahumma inni a'udhu bika min ghalabati ad-da'in wa ghalabati al-adu wa shamatati al-a'da. O Allah, io ti chiedo la protezione contro la sopraffazione da parte di un debito, la sopraffazione da parte di un nemico e contro le malevolenze dei nemici. Ya Hayyu Ya Qayyum, bi rahmatika astaghith, aslih li sha'ni kullahu, wa la takilni ila nafsi tarfata 'ayn. O vivente, o sussistente, ti chiedo di irrorarmi con la tua misericordia. Fa che tutti i miei affari vadano bene e non confrontarmi con la mia anima un solo istante. Allahumma jannibni munkarati l'akhlaq wal a'mali wal ahwa'i wal adwa'. Wallah, tieni lontano da me le cose riprovevoli dei comportamenti, delle azioni, delle passioni e delle malattie. A'udhu bi kalimati Allahi tammat min sharri ma khalaq. Chiedo protezione alle parole perfette di Allah dal male delle cose che ha creato. Bismillahilladhi la yadurru ma'asmihi shay'un fil ardi wa la fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim. Nel nome di Allah, con il nome del quale non nuoce alcunché nella terra e nel cielo. Egli è colui che ode e colui che sa. Rabbi ighfirli wa tub 'alayya innaka antat tawwabur rahim. O mio Signore, perdonami e concedimi di nuovo la tua grazia. In verità, tu sei colui che facilmente perdona, il clementissimo. La ilaha illallahu wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Non c'è divinità tranne Allah, l'unico, il quale non ha condomino nella sua qualità divina. A lui appartiene il regno e a lui appartiene la lode, ed egli è colui che ha potere su tutte le cose. Subhanallah walhamdulillah وَلَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ. La qualità divina di Allah è incondivisa e la lode appartiene ad Allah. Non c'è divinità tranne Allah. Allah è più grande e non c'è né forza né potenza se non grazie ad Allah. Allahumma inni a'udhu bika min al-ajzi wal kasali wal jubni wal bukhli wal harami wa 'adhab al qabr. O Allah, io ti chiedo protezione contro la fiacchezza, la pigrizia, la negligenza, la viltà, l'avarizia, gli acciacchi della vecchiaia e il castigo della tomba. Allahumma inni as'aluka min al-khayri kullihi aajilihi wa aajilihi ma alimtu minhu wa ma lam a'lam wa a'udhu bika min ash-sharri kullihi عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم. اللهم إني أسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك وأعوذ بك من شر ما استعذك منه عبدك ونبيك. اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل وأسألك أن تجعل كل قادئ قَدَعِتَ لِي خَيْرًا. O Allah, in verità io ti chiedo ora e in avvenire tutto il bene di ciò che io so e di ciò che io non so, e chiedo protezione a te da tutto il male che io so e che io non so. O Allah, in verità io ti chiedo di bene quello che chiese a te il tuo servo e il tuo profeta, e chiedo protezione a te dal male dal quale chiedeva protezione a te il tuo servo e il tuo profeta. O Allah, in verità io ti chiedo il paradiso e ciò che di parola e di azione avvicina ad esso, e chiedo protezione a te dal fuoco e da ciò che di parola o azione avvicina ad esso, e ti chiedo che tutto ciò che hai decretato per me sia bene. Il ricordo di Allah, sia gloria a Lui l'Altissimo, dopo il taslim del rito di adorazione. Dopo il taslim, dire tre volte: Astaghfirullah alladhi la ilaha illa huwa al-hayy al-qayyum wa atubu ilayhi. Chiedo perdono ad Allah, all'infuori del quale non c'è divinità, il vivente, il sussistente, e a lui ritorno. Poi recitare: Allahumma anta salam wa minka salam tabarakta ya zal jalali wal ikram. Allahumma la mani'a lima atait wa la mu'tiya lima mana't wa la radda lima qadait ولا ينفع ذا الجد منك الجد. Wallah, tu sei la pace e da te viene la pace. Sii benedetto, titolare della maestà e dell'onore. Wallah, non c'è impedimento a ciò che hai dato, né chi possa dare ciò che hai proibito, e non ci si può sottrarre a ciò che hai stabilito, e non c'è dotato di fortuna che giovi, perché la buona sorte viene da te. Poi si recita Ayatul Kursi. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardi. Man dhal ladhi yashfa'u 'indahu illa bi'iznihi. Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yukhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima sha'a. Wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal-ard wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwa al-'aliyyul 'azim. Chiedo protezione ad Allah contro Satana il lapidato. Allah, non c'è divinità tranne Lui, il vivente, il sussistente. Non lo prendono né sonnolenza né sonno. A Lui appartiene ciò che esiste nei cieli e ciò che esiste sulla terra. Chi intercede presso Lui se non con il suo permesso? Conosce ciò che sta loro davanti e ciò che sta dietro, mentre essi non sanno di Lui se non ciò che Egli ha voluto far sapere di sé. Il suo scranno è più ampio dei cieli della terra e non gli pesa la custodia di essi due. Egli è l'Altissimo, il Sublime. Poi si recita Bismillahirrahmanirrahim. Kul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. Nel nome di Allah, il misericordioso, il clementissimo, di Allah è unico, Allah è eterno, non generò né fu generato e nessuno è coeguale a Lui. Poi devi recitare 33 volte Subhanallah. La qualità divina di Allah è incondivisa. 33 volte Alhamdulillah. La lode appartiene ad Allah. 33 volte Allahu Akbar. E infine La ilaha illallah. Wahdahu la sharika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu. Wa huwa ala kulli shay'in qadir. Non c'è divinità tranne Allah, unico, senza condomino nella sua qualità divina. A Lui appartiene il regno e a Lui appartiene la lode, ed Egli ha potere su tutte le cose. E dopo, durante il witr, si recita la preghiera del kunut, della sottomissione. Allahumma hdini fiman hadait wa afini fiman afait wa tawallani fiman tawallait wa barik li fima atait wa qini sharri ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda alaik wa innahu la yadhillu man walait ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعاليت. Oh Allah, guidami in chi hai guidato, dammi vigore in colui al quale hai dato vigore, tienimi lontano da chi hai tenuto lontano e benedicimi in ciò che mi hai dato e preservami dal male che hai decretato, poiché in verità tu decreti e non si decreta contro di te, e in verità non viene umiliato chi tu sostieni, né esaltato chi tu hai abbandonato. Sii benedetto ed esaltato, o Signor nostro. E in conclusione, والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. E la lode appartiene ad Allah, per grazia del quale sono perfette le opere buone. وصلى الله على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.